Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Un tenore di vita sopra le sue possibilità e le indagini su truffe ad altri anziani. Proseguono le indagini su Erika Podmenich dopo l'assassinio di Isabella Tregnaghi. Intascava i rimborsi Asugi degli apparecchi acustici prescritti ai pazienti, sequestro e denuncia per truffa alla titolare di una clinica audiologica triestina. I triestini Giorgia Fabris e Giulio Prodan Alfieri della Repubblica, il presidente Mattarella premia il loro impegno per integrazione e divulgazione della scienza. Proloco espressione delle tradizioni popolari del territorio, a Gorizia l'assemblea si conclude con l'annuncio delle date di Sapori Proloco 2025 a Villa Manin. A San Giorgio di Nogaro, la prima settimana del mare, oggi si discuterà di mestieri nello scalo commerciale, allestita anche una mostra sugli effetti dell'antropizzazione. Il violinista Salvatore Accardo, premiato a Pordenone con il sigillo della città, a Udine si inaugura la mostra del fotografo napoletano Mimmo Iodice. 12:31 minuti, buongiorno da Lara Zani e Rita Micoli. Movente e dinamica dell'omicidio, le indagini sull'assassinio di Via delle Beccherie a Trieste tentano di far luce sul passato della rea confessa Erika Podmenich. Buongiorno, sono una persona onesta che grazie all'ex marito non può ottenere prestiti dalle banche, contattatemi se possibile, grazie. E questo è il messaggio lasciato esattamente 2 anni fa da un utente che si firmava Erika Podmenich su un sito che offre prestiti tra privati per chi non riesce a ottenerli nei canali ufficiali in quanto debitore non solvente. Il nome corrisponde a quello dell'omicida reo confessa dell'89enne Isabella Tregnaghi. Corrisponde anche la circostanza di non essere più insieme al suo coniuge, una separazione che però non è ancora stata sancita dal divorzio. Se quel messaggio l'ha scritto veramente lei, significa che cercava soldi già ad aprile 2023 per mantenere il suo tenore di vita che chi la conosce ha definito sopra le sue possibilità. Un possibile elemento in più di un'indagine che si concentrerà soprattutto su un movente dinamica del crimine. Secondo il giudice per le indagini preliminari, c'è il rischio che Podmenich possa reiterare il reato. L'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP Marco Casavecchia dice questo. Pesano anche i 2 episodi di marzo di presunta narcotizzazione ai danni di 2 donne, tra cui un ex collega, che avevano lamentato successivamente la sparizione di alcuni oggetti preziosi dalle proprie abitazioni. Un'indagine era stata da poco avviata su denuncia delle 2 vittime, una delle quali aveva avuto un incidente in auto a causa proprio di un malore successivo allo stordimento avvenuto a causa di un sonnifero non assunto volontariamente. Intanto l'avvocato Massimo Scrascia annuncia che Podmenich si è resa disponibile ad essere interrogata dal pubblico ministero la prossima settimana, dopo essersi avvalsa in un primo momento della facoltà di non rispondere. La telecamera in casa non ha ripreso la scena dell'omicidio e ha soltanto in memoria alcuni fotogrammi. Sperava diversamente Podmenich, spiega il difensore, perché a suo dire è decisivo quanto accaduto 5-10 minuti prima della coltellata alla gola. Alcune risposte in più potrebbero arrivare la prossima settimana dall'autopsia. Trieste, Andrea Saul e Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Ha beneficiato indebitamente dei rimborsi erogati da Asugi per l'acquisto di ausili protesici acustici da parte di persone riconosciute come invalide civili. Questa l'accusa alla legale rappresentante di una clinica audiologica nei cui confronti la Guardia di Finanza di Trieste ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per oltre 48.000 euro. Il provvedimento di sequestro emesso su richiesta della Procura della Repubblica di Trieste sulla base di indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza è basata sulla meticolosa ricostruzione del danno procurato al bilancio sanitario. Le attività di polizia giudiziaria hanno consentito di accertare come la titolare della clinica, una ragusana da tempo residente a Trieste, avesse percepito indebitamente, nel solo periodo 2018-2023, oltre 48.000 euro che avrebbero dovuto costituire il rimborso erogabile a determinate condizioni a 35 clienti che ne avrebbero avuto diritto per l'acquisto di altrettanti apparecchi acustici. Il modus operandi della titolare della clinica era semplice, dimostrandosi disponibile all'avvio dell'iter burocratico per avere il rimborso per conto dei clienti della clinica, produceva personalmente le relative richieste alla Asugi, trattenendo poi direttamente l'importo. La titolare della clinica è stata quindi denunciata per truffa aggravata, per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità materiale, falsità in atti pubblici. Ci sono anche due giovanissimi triestini nell'elenco dei 29 nuovi alfieri della Repubblica nominati dal presidente Sergio Mattarella. Si tratta di Giulia Fabris, nata nell'aprile del 2010 e residente a Trieste, premiata per il supporto generoso con cui contribuisce in modo fattivo all'accoglienza e all'integrazione in un quartiere socialmente complesso ad alta densità di immigrazione come quello in cui si trova la sua scuola. L'altro è Giulio Prodan, nato nell'agosto 2008 e sempre residente a Trieste. Il riconoscimento del Quirinale gli è stato conferito, recita la motivazione, per la passione con cui studia la biologia e la generosità con la quale cerca di farla conoscere ai ragazzi più piccoli, servendosi di dimostrazioni semplici e divertenti. Studente del Liceo Galilei, ha creato il progetto Class Lab. In due anni più di 20 classi nella provincia di Trieste hanno aderito. Prodan collabora inoltre con ICGEB, dove ha già frequentato uno stage estivo, e con Maker Faire. Sentiamo la sua reazione alla notizia. Super incredulità, no, non me lo sarei mai aspettato onestamente, però anche molto entusiasmo sapere che quello che faccio è stato riconosciuto a piani così alti del nostro stato. Come è nata la tua passione per la biologia? È nata da piccolino, quando iniziavo a chiedermi il perché di tutto e soprattutto della vita, il perché viviamo, come funzionano le piante, gli animali e così via. La mia nonna e i miei genitori sono sempre stati pronti a spiegarmi le cose, entrando sempre più nello specifico. Ora è quello che voglio fare nella vita. E la biologia mi piace perché risponde a delle domande che ci poniamo e che spiegano quello che sta intorno a noi. E come fai a trasmettere questa tua passione ai ragazzi più piccoli? Con l'entusiasmo, prima di tutto, e poi cercando di rompere quel divario che c'è fra gli insegnanti e gli studenti. Sono tuttora uno studente, quindi so che quello che dice un prof, una maestra, può essere noioso, può essere poco attraente, ma cercando di portarlo su un piano più giocoso, con degli esempi, degli scherzi, qualche battuta qua e là, e poi facendoli toccare con mano con degli esperimenti di biologia semplificati, ma veri e propri esperimenti, cerco di fargli appassionare anche a loro a questa cosa. Gorizia, capitale europea della cultura, è stata scelta dal Comitato regionale dell'Unione Nazionale Pro Loco per l'assemblea annuale. Le Pro Loco non sono solo sinonimo di sagre con prodotti locali, ma sono l'espressione delle tradizioni popolari di un territorio e la trasmissione di esse alle generazioni future. Una realtà che si basa sul volontariato e che in Friuli Venezia Giulia è portatrice di grande vitalità. Sono 240 le Pro Loco che aderiscono all'Unione Nazionale e solo nel 2024 si sono affiliate 14 nuove realtà e dall'inizio dell'anno ci sono altre 5 nuove affiliate. Tra le 19 new entri si va da quella del rione triestino di Servola a numerose delle aree montane tra Saghis, Mersino, Ponteibe, Ligosullo per arrivare a Lignano e Carlino. Associazioni del terzo settore consapevoli che per l'organizzazione di eventi è necessaria un'elevata professionalità che applica le norme sulla sicurezza e che queste hanno un costo. A questo proposito è fondamentale il supporto delle istituzioni locali, regione e comuni, come è stato sottolineato dal presidente del Comitato regionale Pietro De Marchi, ma anche del supporto tecnico come quello offerto dall'ufficio SOS Eventi, che nel 2024 ha portato a termine oltre 400 pratiche. Di fatto la nostra segreteria dà un forte aiuto a tutte le proloco associate, non solo ma anche ad altre, perché noi abbiamo un ufficio apposito che è l'ufficio SOS Eventi, che segue non solo ed esclusivamente le proloco ma anche tutte le altre associazioni, parrocchie e quant'altro sull'organizzazione degli eventi. L'importanza delle Pro Loco nella valorizzazione del territorio e nella destagionalizzazione è stato sottolineato anche dall'assessore regionale al turismo Bini. L'assemblea delle Pro Loco, tenutesi a Gorizia, si è conclusa annunciando Sapori Pro Loco 2025 a Villa Manin il 17 e il 18 maggio e dal 23 al 25 maggio, alla quale parteciperanno 22 affiliate. Gorizia, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Anche la diocesi di Trieste, in concomitanza con l'evento giubilare a Roma, celebra il giubileo degli ammalati, delle persone disabili e del mondo della sanità. Dalle 14.30 al santuario di Montegrisa verrà distribuita la guida per ricevere l'indulgenza nelle strutture di accoglienza o nell'abitazione delle persone ammalate. A Magnago questa sera lucciolata gastronomica nella struttura della Casa della Gioventù, alle 21 cena per raccogliere fondi per l'associazione Via di Natale che assiste le famiglie dei pazienti del CRO di Aviano. Si apre oggi la prima edizione della Settimana del Mare. A organizzare e promuovere Porto Nogaro, Volti e Mestieri del Mare e il Centro Stella Maris, insieme alla Guardia Costiera di Porto Nogaro, al Comitato Territoriale del Welfare della Gente di Mare e a Villa d'Ora. Si tratta di un'opportunità per conoscere l'articolata realtà di uno scalo commerciale di rilevanza strategica, sia logistica che industriale. Nel 2024 a Porto Nogaro sono attraccate infatti quasi 300 navi, con una mole di merci movimentate che supera il milione di tonnellate. Punto di forza del progetto è la mostra Plastico Oceano e l'antropizzazione del mare dell'artista Elisabetta Milan, che è stata inaugurata alle 11 nel parco di Villa d'Ora. Ricco inoltre il programma di incontri, dialoghi e visite guidate che culmineranno nella giornata di venerdì 11 aprile, la giornata del mare. Ne abbiamo parlato con Monica Garditto, referente del Centro Stella Maris. L'idea principale era quella di promuovere quelle che sono le attività del porto e portare il porto di nuovo all'origine, cioè come luogo di incontro, in quanto adesso purtroppo i porti sono chiusi, però ci riguarda veramente tutti quanti quello che succede dentro i porti, perché la maggior parte delle cose che possediamo, che abbiamo, ma anche che mangiamo, arriva attraverso i porti grazie al lavoro di tantissime persone che sono ormai un po' gli invisibili, perché i porti sono chiusi, sono lontanissimi dai centri abitati. Il nostro progetto Porto Nogaro, Volti e Mestieri del Mare, vuole riportare al centro il porto e riportarlo a quel luogo in cui di incontri, di storie, di racconti e di scoperte di mestieri che altrimenti resterebbero invisibili e sconosciuti a molti. Questa è una delle iniziative del Centro Stella Maris. Quali sono le altre? Il Centro Stella Maris nasce per prima cosa per tutelare e assistere i marittimi sulle navi. Spesso non ci rendiamo conto di quanto appunto ci riguarda la vita di queste persone, perché la maggior parte delle cose che abbiamo e che ci rendono felici ogni giorno, se pensiamo a quanto siamo legati ai nostri gadget, alle cose che indossiamo, alle cose che riceviamo come regali, fanno un viaggio, e questo viaggio lo fanno grazie al lavoro di questi marittimi, che sono appunto sconosciuti a molti, e purtroppo le condizioni a bordo delle navi non sono buone, spesso mancano tantissimi diritti e tutele anche sanitarie e di assistenza. Il Centro Stella Maris vuole essere quella presenza che quando arrivano le navi non arrivano solo le merci, ma arrivano proprio le persone, e quindi noi ci siamo presenti, saliamo a bordo e andiamo all'incontro con queste persone e portandogli tutto quello che gli serve, sia parte materiale, quindi schede telefoniche, possibilità di accedere al bike sharing che abbiamo, portarli nel centro di San Giorgio, l'assistenza sanitaria e soprattutto anche l'assistenza dei loro diritti. Ora uno sguardo al meteo. Il cielo è sereno sulla regione, le temperature delle 11, a Trieste 14 gradi, a Gorizia 18, a Udine e Pordenone 16, a Tolmezzo e a Tarvisio 15 gradi, a Forni di Sopra 14, sul Piancavallo 12, sul Monte Zoncolan 10 gradi, sul Lussari 8, sulla costa Lignano 16 gradi, grado 14. Vediamo le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per oggi. Cielo sereno, poco nuvoloso, aumento delle nubi verso sera, venti deboli a regime di brezza. Ora la cultura. Salvatore Accardo è vincitore della 10ª edizione del premio Pordenone Musica. Alle 20.30 il violinista terrà un concerto al Teatro Verdi. Lo abbiamo incontrato poco prima della consegna del sigillo della città in municipio. Il potere della musica per i giovani è straordinario, è anche terapeutico in un certo senso, perché sappiamo che la musica può curare certe malattie dei giovani. Pensi che in più di 50 anni che insegno non mi è mai capitato di avere dei casi di tossicodipendenza fra i miei allievi, sono stati centinaia e centinaia, quindi fa pensare questo, no? Come siamo messi in quanto educazione musicale in questo paese, non molto maestro? Bene, non molto bene purtroppo, ed è questo che non si riesce a far capire a chi ci governa, che la musica è indispensabile. Cioè, l'educazione musicale anche per chi non farà il musicista è fondamentale, e quindi bisognerebbe fare di più. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Gli scatti del napoletano Mimmo Iodice, esposti da oggi in Castello a Udine nella mostra L'Enigma della Luce, di cui è in corso l'inaugurazione. Il consiglio di Mimmo Iodice, uno dei più grandi maestri italiani della fotografia, è quello di guardare bene, perché saperlo fare è essenziale per vivere bene. Mentre a 91 anni l'artista napoletano pensa ancora alle cose che dovrà fare, a Udine apre oggi in Castello una mostra dedicata al suo lungo percorso di ricerca visiva. Solo bianco e nero, solo pellicola, solo camera oscura. 140 fotografie dalle sperimentazioni concettuali agli scatti che fissano le piaghe sociali italiane. Per la prima volta in mostra un progetto esposto ai Musei Vaticani, Iodice che cerca negli occhi delle statue i turbamenti dell'animo umano. Dialogo col passato e memoria sono al centro della sezione dedicata alla città di Trieste. Presente anche la figlia Barbara Iodice che domani farà da guida a un gruppo di persone. Questa è una terra che ha molto amato, dice, siamo orgogliosi che abbia tirato fuori dagli archivi queste vecchie fotografie che stanno lì dal 1987. Siamo orgogliosi di fare la prima mostra di Mimmo Iodice in Friuli Venezia Giulia, aggiunge. Esibizioni come questa partono dagli anni 60 e arrivano fino a oggi e servono proprio per capire come si è mosso un artista negli anni, come abbia cambiato prospettive e abbia evoluto il suo pensiero. Aperta fino a novembre, la mostra L'Enigma della Luce, organizzata dal Comune di Udine, è un viaggio in una realtà sospesa nel tempo e nello spazio, enigmatica, un'evasione dalla normale percezione della realtà. Come indica Silvia Bianco, conservatrice dei Civici Musei di Udine e curatrice, il percorso si organizza per sezioni tematiche, si parte dai linguaggi e si attraversano le città, a partire da Napoli, la sua Napoli, che tanto ama e ha interpretato in modi molto diversi, in modo surreale. Si passa poi per Trieste, ed è questa la particolarità di questa mostra, e si conclude con il mare rivolto all'infinito in un tempo sospeso. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alcuni appuntamenti con gli spettacoli, la banda Osiris con il filosofo evoluzionista Telmo Pievani alle 20.30 al Palamostre di Udine per la stagione Teatro Contatto, con il nuovo spettacolo Allegro Bestiale che unisce scienza e musica per raccontare la biodiversità italiana con ironia e profondità. Filippo Nigro chiude la stagione teatrale di Artegna con Every Brilliant Thing, le cose per cui vale la pena vivere, alle 20.45 al Nuovo Teatro Monsignor Lavaroni. A Gorizia oggi alle 20.30, domani alle 18 al Kulturnidom repliche dell'inedito concerto del gruppo Black Panthers di Doberodò dal titolo Sa Sa Sa. A San Vito al Tagliamento per la rassegna di stand-up comedy Martina Catuzzi, alle 21 con ingresso a contributo in Satira sui deboli. Torno a Trieste, storia di casa vostra, alle 20.30 al Teatro Parrocchiale di Roiano, al pubblico viene chiesto di portare un oggetto qualsiasi da casa che diventerà protagonista di una storia creata sul momento. Spettacolo di aperitivo con l'arte Hayao Miyazaki, il progettista di sogni, alle 20.30 nella sala comunale di Cormons. E a Palma Nova per i 100 anni del gruppo Ananievo, i 70 della sezione Tavoni, alle 20.30 al Teatro Modena, concerto spettacolo in uniforme storica della Prima Guerra del coro Le Voci dal Fronte, coro e rievocazione. A Palma Nova, in polveriera napoleonica di Contrada Garzoni, l'inaugurazione della mostra Texture, l'ordine nel caos, dell'architetto Rodolfo Lepre, alle 18. E nell'antico ospedale di Santa Maria dei Battuti a San Vito al Tagliamento sarà inaugurata la mostra di Renzo Codognotto, l'arte tra idilio e intimità, alle 17.30. E ora lo sport con il calcio. A Marassi arriva la terza sconfitta di fila dell'Udinese che perde 1-0 contro il Genoa. Le immagini chiave di Genoa-Udinese sono tre. L'incredibile errore in apertura di secondo tempo di Lucca, che non scarta il cioccolatino servito da Atta e tutto solo a pochi metri dalla porta sguarnita calcia di destro a lato. La rete di Zanoli alla mezz'ora della ripresa, con l'attaccante che finalizza nel migliore dei modi l'azione iniziata da Frendrup, proseguita da Ekuban sulla sinistra, e chiusa con un gran destro incrociato sul quale Okoye non può nulla. E l'elaborazione elettronica della VAR, che segnala il millimetrico fuorigioco di Lucca, che solo con una mezza spalla è oltre l'ultimo difensore genoano, e invalida la splendida rete segnata poi da Modesto con un controllo in aria e un tocco di esterno sul palo lontano, esattamente allo scadere del tempo. La sfida di Marassi finisce dunque 1-0 per il Grifone, frutto di un primo tempo con prevalenza dei padroni di casa e di una seconda frazione dove invece sono i bianconeri a fare la partita. E l'occasione più grossa ce l'ha Modesto, che su cross dalla destra tenta il colpo di testa ravvicinato. La palla esce forte ma centrale e il riflesso di Leali salva la porta dei rossoblù. Dopo la rete subita c'è il rischio del 2-0 con Okoye bravissimo prima sul tiro di Ekuban e poi sul tentativo di Torsby di ribadire in rete e il forcing dei bianconeri sterile fino al gol di Modesto poi annullato dalla VAR. Gioisce il Genoa che con i 3 punti chiude il discorso salvezza. Per l'Udinese è la terza sconfitta di fila ma Modesto nega che la squadra abbia staccato la spina. Creo que no, no lo veo en los entrenos. Trabajamos bien, queremos hacer más puntos posible. Non vedo nessun tipo di rilassamento, spiega il centrocampista Adalberto Biazzi dopo la partita. Lavoriamo ogni giorno come sempre e vogliamo fare più punti possibili per completare la stagione, come non è mai accaduto all'Udinese negli ultimi anni. La sfida è anzi ancora maggiore quando si sta in una buona posizione di classifica. Ultimamente le cose non ci sono andate bene, ma siamo pronti a riprendere a lavorare in vista della prossima gara. Pero las cosas no salieron hoy y trabajamos para el próximo partido. Andrea Bardani, GTGR Friuli Venezia Giulia. Per il basket femminile di A2 oggi Apuli Mendelse Rudina al Palasport Carnera contro il Vigarano, ultimo in classifica alle 20:30. Futurosa Trieste nell'ultimo match casalingo della stagione regolare ospita alle 19 al Palarubini il Civitanova. Pallanuoto femminile, nella finale di ritorno di Eurocup, le orchette alabardate saranno impegnate sul campo delle olandesi del De Zaan ad Amsterdam alle 20:30. È partita dalla Capitaneria di Porto di Trieste la Run for Hope, la staffetta benefica più partecipata d'Italia, che fino a domenica percorrerà tutta la regione e terminerà a Gorizia. Il connubio tra corse e solidarietà donerà il ricavato delle donazioni alla Fondazione AIRC per la ricerca contro il cancro. 40.000 podisti coinvolti, 20 staffette per 20 regioni, tutte con un unico obiettivo, sostenere la ricerca sui tumori pediatrici. La Run for Hope, Massigen del Friuli Venezia Giulia, è partita dalle rive di Trieste in 8 giornate e toccherà tutti i luoghi simbolo della regione. Bisogna sensibilizzare le persone a essere più presenti nella vita di tutti. Il percorso completo fino a Monfalcone è 28 chilometri, ovviamente non li faremo tutti, qualcuno forse anche sì. L'iniziativa oltre al CONI, la regione e i comuni è patrocinata dal Corpo delle Capitanerie di Porto. In prima fila anche quest'anno c'è l'AS di Trieste Atletica, organizzatrice della prima giornata, il presidente Pompeo Tria. Convogliare il più possibile risorse e la sensibilità soprattutto per le realtà come rendere curabile questo male maledetto che è il cancro. Noi da anni che lo facciamo e intendiamo ancora concentrarci su questo tema. L'evento è giunto alla sua 5ª edizione. Nel primo quadriennio ha sostenuto i ricercatori della Fondazione AIRC e dell'Associazione AIL con oltre 210.000 euro giunti dalle donazioni dei runners italiani impegnati nella corsa e nella raccolta fondi. Manuela Sorci, coordinatrice regionale Fondazione AIRC. Il nostro obiettivo è raccogliere fondi sì per la ricerca oncologica, per i nostri ricercatori. Noi nel 2024 abbiamo finanziato 141 milioni di euro per 5.000 ricercatori, quindi un grosso sforzo che facciamo grazie poi ai nostri sostenitori in tutta Italia. Trieste, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora le rubriche della domenica sulla terza rete televisiva Rai alle 11:05 domani e sul primo canale radiofonico alle 6:05 sempre domani mattina una nuova puntata di Est Ovest. La Bielorussia non deve essere dimenticata, questo l'appello di Svetlana Tsikhanouskaya, leader dell'opposizione democratica a Lukashenko. Nella capitale romena Bucarest sta per essere consacrata la nuova cattedrale della salvezza del popolo, la più grande chiesa ortodossa del mondo. In Serbia sempre più agricoltori si stanno schierando con gli studenti contro il governo dell'autoritario presidente Aleksandar Vučić. Le economie di Albania e Italia sempre più interconnesse anche da future strutture energetiche e logistiche, il ruolo delle imprese italiane. L'epopea della pallacanestro jugoslava, l'orgoglio di una nazione scomparsa, raccontata nel libro Jugo Basket da Alessandro Toso. Tutto questo a Est Ovest, domenica alle 11:05 su Rai 3. E sempre domani, dopo il giornale radio della domenica, torna a Vita nei Campi, la trasmissione dedicata ad agricoltura ed enogastronomia. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai, domani in apertura alle recenti disposizioni europee che stanno complicando il lavoro nei campi. A seguire, primavera, tempo di capretti, più volte ricordati negli annali, con tanto di ricette. Come programmare e curare gli alberi piantumati in vigna, consigli per ottenere risultati sia per la frutta che per l'uva. Seconda puntata dedicata al cotone, come l'Inghilterra abbia fatto il buono e cattivo tempo sulla sua produzione e commercializzazione, e ancora come la sovraesposizione ma anche la carenza di ossigeno possono causare difetti organolettici durante la conservazione del vino. La regione Friuli Venezia Giulia gestisce e preserva oltre 15.000 ettari di foreste, un patrimonio da tutelare e valorizzare. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo e il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Prima di chiudere, due appuntamenti per altrettante presentazioni di libri a Gorizia alle 18 a Palazzo De Grazia, la presentazione del libro di Federica Manzona Alma, premio Campiello, organizzata dalla comunità terapeutica La Tempesta all'interno del Festival Indipendenze. Alla libreria Ubic di Trieste, Leonardo Mendolicchio presenta L'amore è un sintomo alle 18. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. In regia Roberto Cavallari e Carlo Morello. In redazione ha collaborato Laura Sarasini. Da Lara Zani e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.